frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. E ciao a tutte e tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Frequenze sui Generis. Questo è il secondo lunedì del mese, quindi siamo in buona compagnia. Siamo con Francesco ed Elisa del Cassero. Ciao a tutte e a tutti. Ciao a tutte. Sì, siamo in buona compagnia e siamo anche piene di numeri della falla di questo mese. Allora, siccome siamo qui per presentare appunto la falla di dicembre e ce la stiamo sfogliando da un po', diciamo. Allora, la prima cosa che possiamo dire è che il colore di questo mese è il verde. Anche il poster sul retro lo è. E poi dicevamo prima, la linea guida, diciamo, è poi il tema dell'apertura in qualche modo, no? Sì, diciamo che tutti i numeri della falla corrispondono in ultima istanza al pensiero che anima il Cassero, però forse questo in modo particolare, perché affrontiamo una serie di temi che riguardano il mondo LGBT+, come sempre, ma non solo. Parliamo di DASP urbano, parliamo di donne HIV, parliamo di assistenza sessuale alle persone con disabilità. Diciamo che questo numero ha un'ottica particolarmente intersezionale, appunto. E parlando di DASP urbano, siccome è l'editoriale, partiamo un po' da quello, l'editoriale di Brenà, che parla appunto del DASP urbano a proposito di apertura, diciamo, un po' l'opposto. Forse quello che sta succedendo oggi a Bologna, grazie anche al decreto sicurezza di Minniti, di cui abbiamo già un po' parlato su queste frequenze, ma ripeterlo non fa male. Sì, noi siamo rimaste, uso il femminile universale, lo ricordo ogni tanto per comodità, noi siamo rimaste particolarmente sconcertate dal provvedimento del DASP urbano, anche perché il Cassero si occupa da anni dell'intersezione tra persone LGBT+ e l'essere senza tetto, non avere una casa. C'è un numero insospettabilmente alto di ragazzi e ragazze LGBT+ homeless. Noi ormai da 3 anni, il 6 gennaio e il 2 giugno, facciamo un'iniziativa che si chiama Generi di Conforto, in cui per un giorno diventiamo mensa e offriamo cibo alle persone. Sì, in effetti, proprio sulla scia di questa iniziativa, l'edizione di Gender Bender di quest'anno ha visto un aperitivo fisso, diciamo, dedicato agli homeless, che è durato per tutto il festival. Diciamo, abbiamo provato a fare una breve panoramica di quello di cui parleremo nella prossima mezz'ora. Adesso, prima di avventurarci nella lettura proprio della falla di questo mese, nello spiegare qualche altro articolo, dobbiamo presentare la musica di oggi. Tu, Vivi, se non sbaglio, ti sei sentita con Giulia e quindi ci puoi presentare l'artista che andremo a sentire. Certo, Giulia non ci delude mai e anche per questa settimana ha scelto un artista. Nella puntata di questa settimana la proposta musicale riguarda un'artista israeliana. Lei si chiama Noga Eretz e la segnaliamo perché, oltre ad aver appena concluso un tour in Italia, è un importante realtà nel panorama delle promesse emergenti della musica elettronica. Il suo stile è estremamente contaminato e mischia in modo fluido hip hop, elettronica e pop, per un risultato finale di estrema freschezza. La sua provenienza geografica, nata e cresciuta a Tel Aviv, non la esime da una presa di posizione rispetto alle politiche del proprio paese, contro le quali si scaglia in modo deciso, tema che ritorna in brani come Dance While You Shoot. Di recente, in un'intervista, ci ha tenuto a prendere le distanze da gruppi come Radiohead o Nick Cave, che decidono di non boicottare Israele nei loro tour perché dice la musica non può accettare la prevaricazione e la violenza. Nei suoi brani ritornano anche temi come la violenza e i ricatti esercitabili sui social media. Vi consigliamo di tenere d'occhio questa giovane artista e andiamo ad ascoltare il primo brano, Dance While You Shoot. That's it. I finally lost my patience. I gave my head too many medications. It's over, you're done, you're gone, you're gonna. Hey, I got my ticket, mission accomplished. I won't miss you, won't miss you. Freedom, my people, taking my money, wasting a chance of sanity. But can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? Can you move while you shoot? Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot. You've taken, I've tried to swing your fingers. Give me a middle one, hey. I got my weapon nice and polished. They hit him off me, so cocky. You know how to pet. The same time you threat, I confess my loyalty. But can you dance for the shoot? Can you dance for the shoot? Can you shoot while dancing? Can you move with the shit? Can you dance with the shit? Can you dance with the shit? Can you shit while dancing? Can you move with the shit? Can you shit while dancing? Can you dance with the shit? Can you shit while dancing? You can shit while dancing. Can you dance with the shit? Can you shit while dancing? Can you dance with the shit? No knife, with no gun in hand, I can hit you, I can keep you down. All undone, pile of papers, you really gotta sign. You should call, we don't like to hear. Any point, you can go back to the main man, you just press one. E rientriamo dagli studi di Radio Città Fujiko. Oggi inizieremo a parlare da qualcosa di cui proprio la scorsa volta non abbiamo assolutamente fatto menzione, ovvero dalle rubriche della quarta pagina. E ne parliamo insieme a Francesco, perché una delle due questo mese l'hai scritta proprio tu. Sì, esatto. Beh, insomma, partiamo dagli argomenti, diciamo, un po' più leggeri, quelli che inseriamo anche per creare un clima di simpatia rispetto agli articoli interni al numero, che di solito sono decisamente più corposi. Le rubriche sono fondamentalmente due. Quella che ho scritto io questo mese si intitola Forse non sapete che, ed è una rubrica che insomma discende un po' dalla settimana enigmistica. In questo spazio noi ci impegniamo a raccontare alcune curiosità, alcuni aneddoti o alcune leggende che riguardano la popolazione LGBT+. In questa in particolare si è parlato della stella nautica. Non a caso detto leggende, anche perché qui le fonti non sono esattamente concordissime, ma pare che negli anni 50, ad esempio, la popolazione lesbica utilizzasse come segno di riconoscimento una stella nautica tatuata all'interno del polso. L'altra rubrica, che è ormai consolidata, arriva dal numero zero, è Nostra Santità. Nella creazione di un calendario laico, noi abbiamo deciso ogni mese di santificare un personaggio che abbia riguardato, che abbia toccato, che abbia vissuto la storia del movimento LGBT+ o della comunità, parlandone e raccontandone le vicende. Questo mese abbiamo santificato Cristina di Svezia, regina che è nota ai più per avere costretto a una polmonite mortale il povero Cartesio, ma che in realtà, oltre ad aver ucciso oltre a lui svariati filosofi per lo stesso motivo, ha condotto una vita apertamente omosessuale. La paragonate a Lady Oscar, una Lady Oscar antilitteram, ho letto. Beh sì, si potrebbe paragonare, perché in effetti aveva l'abitudine di vestirsi in modo molto mascolino e presentare un'immagine di sé particolarmente, diciamo, diversa da quella che i canoni di genere dell'epoca proponevano. Sì, Descartes, che tra l'altro è stata molto interessante Cristina di Svezia per riuscire a spostarlo, perché se non sbaglio lui si trovava ad Amsterdam. Cioè, c'è anche un libro famoso sul rapporto tra Cartesio e la marijuana, perché è noto anche per il fatto di essere stato un fumatore, appunto, a proposito di liberalizzazione. Ma a questo punto apriamo questo numero della falla e iniziamo a parlare degli altri temi. C'è un articolo che hai scritto tu, Elisa, un po' più corposo, appunto. Sì, sono i miei two cents sui numerosissimi casi di molestie sessuali denunciati in ambiente hollywoodiano, che hanno dato il via a una slavina che sta investendo tutto il mondo occidentale, si può dire, partendo dalla considerazione che la maggior parte dei giornalisti e purtroppo anche delle giornaliste donne parla di queste molestie, se non in modo ammiccante o colpevolizzando le vittime, con una sorta di finto stupore innocente. Oh, per dincibacco, cosa sta succedendo? Delle molestie, come se fosse diciamo la deviazione momentanea di un percorso di serenità e parità tra uomini e donne. Ricordo alcune cose, cioè viviamo nel patriarcato, il patriarcato attraversa tutto il mondo praticamente. In questo caso delle molestie in ambiente hollywoodiano si tratta di abusi di potere più che di sesso in sé per sé. Questo è un elemento fondamentale da tenere presente. E un altro elemento da tenere presente è che le molestie ci sono sempre state, anche vere e proprie violenze sessuali come Roman Polanski con la ragazzina tredicenne. Forse questo ce lo ricorderemo come l'anno in cui gli uomini iniziano a pagare per le loro molestie. Le conseguenze non sono mai arrivate finora, tutti hanno sempre continuato a lavorare con serenità. Ricordiamo anche che il Time ha dedicato la copertina della persona dell'anno alle silence breakers, cioè alle donne che hanno deciso di denunciare le molestie. Quindi noi davvero ci auguriamo che questa non sia solo una mossa di facciata, ma significhi davvero una presa di consapevolezza consapevolezza di quella che, come diceva Elisa, è una situazione strutturale, non certo un caso, una ondata, diciamo, che riguarda soltanto quest'anno. Sì, e tra l'altro, se posso inserirmi, un'altra cosa che a me colpisce, che sì, è strutturale chiaramente la violenza, ma se da una parte non si riconosce questa strutturalità, dall'altra invece viene usata da chi vuole giustificare, cioè ma come, sono cose che subisco anch'io tutti i giorni, ma come, sono cose che vedo accadere sempre, ma se non vi siete lamentate, in fondo lo volevate, vi andava bene, c'è chi ha detto di no, insomma è anche tanto questo il discorso che si è sentito. Quindi da una parte non si riconosce il fatto che sia strutturale, dall'altra invece si giustifica proprio partendo da questo presupposto. Un indizio che i tempi forse sono un po' cambiati può essere che solo pochissimi anni fa, non ricordo quanti esattamente, ma 3 anni fa, la cantante pop Kesha denunciò il suo produttore del primo album quando lei era ancora un'adolescente. Lui abusò di lei, l'ha portato in tribunale. Il risultato è stato un grosso crollo della sua carriera e una shitstorm pazzesca a livello mediatico che ha subito la povera Kesha, per esempio. Sì, in effetti in questo caso pare davvero che i segnali che un cambiamento ci siano, perché rispetto al passato, quando personaggi come Woody Allen e Polanski sono passati illesi da una scia di molestie, in questo caso appunto le cose stanno andando diversamente. Cito per esempio quello più noto al momento, dopo Weinstein, che è Kevin Spacey. Addirittura la produzione di Netflix ha deciso di sospendere House of Cards, cancellandone anche la stagione in corso, e rimuoverlo dal ruolo di Gore Vidal, altra santa del nostro almanacco, per un film che era in produzione per il 2018. E a proposito di cambiamenti che in un certo senso ci sono, d'altra parte poi invece ci sono dei cambiamenti di cui forse ancora c'è bisogno. Per esempio voi in un altro articolo parlate del femminismo TERF, ovvero di quel femminismo escludente che non riconosce in nessun modo le persone trans. Sì, la nostra redattrice Antonia Caruso ha fatto una breve storia della nascita di questo acronimo, che è Trans Exclusionary Radical Feminism, nato nel 2008, anche se è arrivato a noi provincia dell'impero solo, diciamo, quest'anno fondamentalmente, e che ha una storia che si rifà al femminismo separatista della differenza essenzialista, e che parte di fatto, lei cita casi che partono dagli anni 60, dagli albori del movimento LGBT+, per arrivare a Germaine Greer, notissima scrittrice femminista, col libro L'Eunuco Femmina. Le posizioni TERF sono tristemente salite alla ribalta dei social dall'estate scorsa, quando la pagina Facebook di Arcilesbica Nazionale, oltre a esprimersi continuamente e un pelo ossessivamente contro la gestazione per altri, ha iniziato a esprimersi anche di fatto contro le persone trans in modo transfobico. Perché qual è la base, il nucleo fondamentale del femminismo TERF? È che uomini e donne sono diversi e sempre lo saranno, e che la differenza è innanzitutto biologica. Quindi le donne trans e gli uomini trans non sono donne e uomini perché così si sentono e che così hanno autodeterminato la loro esistenza, ma rimarranno sempre le donne trans, uomini mutilati, uomini mancati, gli uomini trans dei traditori della causa femminile e femminista. Questo è molto doloroso e molto violento anche verbalmente. Sì, dal mio punto di vista, poi penso che ognuno intenda le proprie battaglie in modo personale, però dal mio punto di vista è proprio il fallimento di una battaglia, nel senso che il femminismo, per come lo vedo io quantomeno ovviamente, però il femminismo, tutti gli studi di genere anche, alla fine dovrebbero fondarsi sull'idea di non volere una disuguaglianza, non volere un'imposizione, un binarismo di genere anche, cioè non volere il tu sei uomo e sei così, tu sei donna e sei così, non so come dirlo in modo chiaro e più aulico, però insomma tutte quelle imposizioni legate proprio a semplicemente il genere. Invece il femminismo, così come secondo me qualsiasi battaglia sociale, no? Uno è antirazzista e dice io non voglio essere definito dal fatto di essere nero o bianco, io sono femminista e non voglio essere definita dal fatto di essere donna o uomo. E comunque attualmente, diciamo, ci sono tanti femminismi, però il femminismo queer, il transfemminismo che noi tendenzialmente abbracciamo, sostengono che tu sei uomo o donna per come ti senti e come ti autodetermini, indipendentemente dai genitali che ti trovi nelle mutande. E infatti secondo me l'interesse ossessivo per i genitali degli esseri umani è un filo pruriginoso e ossessivo. Sì, anche perché parlando di femminismo ricordiamoci che il femminismo analizza le relazioni di potere, quindi un femminismo che discrimina le persone trans non fa altro che replicare quegli abusi di potere che invece dovrebbe denunciare. Ma infatti il femminismo, diciamo così, radicalizzato in realtà discende da un fattore culturale da cui è difficile facile sfuggire e che ci arriva dal patriarcato, che è quello del binarismo, diciamo, eteronormativo, per cui ogni cosa che non rientra in queste dinamiche viene scartata, e il femminismo transescludente in realtà rispetta alla perfezione questo canone culturale. E tenendo, diciamo, la sessualità come filo conduttore, ma tornando a uno sguardo un po' più aperto, anzi molto più aperto, che è quello proposto dal vostro numero di questo mese, c'è un altro articolo che parla proprio di diritto alla sessualità. Sì, la nostra amica Caterina Di Loreto sta seguendo il corso per assistenti sessuali organizzato da Maximiliano Olivieri, che si basa sul fatto di offrire anche alle persone con disabilità la possibilità di autodeterminarsi a livello di sessualità, di farci pratica ed esperirla nonostante le difficoltà che di relazione a cui possono andare incontro, visto il mostruoso e gigantesco stigma che le persone con disabilità devono affrontare nella loro vita quotidiana. Abbiamo affrontato una serie di temi, diciamo, anche abbastanza complicati e corposi, appunto è una parola che ritorna, mi piace anche questo uso dei corpi nella nostra trasmissione. Comunque a questo punto direi di fare un altro piccolo stacco musicale e poi ascolteremo l'intervista a Vincenzo Morteo, che ha curato l'articolo di prima pagina del numero di questo mese. Ci ritroviamo poi qui sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Siamo in collegamento con Vincenzo Morteo, autore dell'articolo di apertura del numero della falla di questo mese. Allora, questo è il mese di dicembre, il tuo numero, Vincenzo, è dedicato all'HIV e quindi ti vorrei chiedere una domanda un po' retorica in realtà, ma perché avete deciso di dedicare l'articolo di apertura appunto proprio a questo tema? Beh, abbiamo scelto di presentare questo articolo il primo di dicembre perché il primo di dicembre cade la giornata per la lotta all'HIV. Ho deciso di scrivere questo articolo perché credevo fosse importante parlare di coloro che vengono più spesso dimenticate, che sono affette da questa sindrome, cioè le donne. Molto spesso si tende ad immaginare questa sindrome se avesse un genere sessuale, è la malattia di uomini, e molto spesso è una malattia considerata di uomini che vanno a letto con uomini. E infatti il tuo articolo si intitola La storia sepolta delle donne affette da HIV e tu ripercorri un po' a livello globale, diciamo, com'è diffuso effettivamente il virus, e fai anche un parallelismo, insomma, tra il modo in cui si diffonde, che è legato anche a una questione sociale, diciamo. Ci sono due elementi che richiami: uno è quello che hai già detto, cioè il fatto che si pensa che sia un virus legato agli uomini e in particolare agli uomini omosessuali, e l'altro è quello della carenza di educazione sessuale, che un po' si ricollega anche all'articolo di apertura di novembre, che era quello di Nicoletta Landi, giusto? Sì, ho pensato che questo parallelismo fosse necessario proprio perché aiuta a comprendere le motivazioni per cui la storia delle donne affette da HIV è una storia sepolta, proprio perché nella società di tutto il mondo le donne vengono ancora considerate qualcosa di meno degli uomini, e sono state considerate qualcosa di meno degli uomini anche da coloro che hanno studiato all'inizio questa sindrome, e quindi ho creduto importante fare questo parallelismo proprio per far comprendere questo dato di fondo. Un'ultima domanda, secondo te qual è, diciamo, diciamo il punto, lo hai già detto in realtà, ma qual è il punto centrale di questo articolo, diciamo, cioè perché uno lo deve leggere? Perché dobbiamo ricordarci che la sindrome di HIV è ancora presente, è ancora tra di noi e che riguarda le persone, non riguarda il sesso delle persone, nell'orientamento delle persone. È importante leggere questo articolo perché ci ricorda di ricordarci di queste persone, soprattutto di coloro che vengono meno considerati all'interno degli studi, all'interno delle notizie, delle statistiche, che sono le donne. Rientriamo in studio dopo l'intervista a Vincenzo Morteo su donne e HIV e volevo chiedervi, noi abbiamo la nostra Giulia per i consigli musicali e anche voi avete i vostri guru musicali? Beh sì, diciamo che ogni mese la Falla ospita un'intervista al nostro direttore artistico, quindi a DJ e artisti che sguazzano nel mondo della musica, ma questo mese in particolare abbiamo dato spazio a due articoli che parlano, diciamo, del rapporto tra omofobia, razzismo, xenofobia e musica. Ne hanno parlato Antonia Cassori con un articolo che si chiama appunto Vaffanculo omofobia, in cui inizia interrogandosi sul valore che si può trasmettere tramite la musica, che è il mezzo forse più potente di espressione culturale, e finisce per raccontare l'esperienza di Indie Pride, un'associazione nata nel 2016 ma con una storia pregressa, i cui artisti si impegnano in questa direzione. Il tema della musica, come lo solleva lei, viene poi contestualizzato nell'articolo di Simone Astarita, che ci racconta come un concerto apparentemente innocuo di una band libanese, Mashru Leila, al Cairo, abbia scatenato una reazione violenta da parte del governo, che ha deciso di attuare una serie di interventi molto violenti riguardo a coloro che hanno frequentato lo spettacolo, a chi ha ad esempio venduto bandiere rainbow durante lo spettacolo, scatenando una serie di arresti sotto l'imputazione di una accusa che potrebbe riassumersi nei termini oscenità. Perché ricordiamo, neanche in Egitto l'omosessualità è reato, ma in questo caso il governo ha deciso di intervenire massivamente. Addirittura gli Stati Uniti, tramite un intervento all'ONU, hanno deciso di parlare dell'argomento. E a questo punto direi che dobbiamo quasi salutarci appunto con un po' di musica. Prima di farlo ricordiamo che ci ritroverete sempre qui sul 103.1 FM la prossima settimana, sempre il lunedì dalle 14.30 alle 15, che potrete riascoltare il podcast di questa puntata, che troverete sia sul sito www.radiocittafugì.it sia sulla pagina Facebook Frequenze Sui Generis. E lascio anche a voi lo spazio per salutare e dare i vostri contatti. Sì, ricordo che tutti voi potete trovarci alla pagina Facebook della Falla e anche al profilo Instagram della Falla. E tutti gli articoli pubblicati sul cartaceo hanno un archivio online che è lafalladelcassero.wordpress.com, su cui ospitiamo sempre più contenuti originali pensati per il web. E poi ovviamente c'è la Falla cartacea che si trova al Cassero in giro un po' per tutta Bologna. A questo punto direi che ci salutiamo davvero. Seguite la nostra pagina Facebook, seguite quella della Falla che spero ricondividerà il nostro podcast. Certamente. E un buon proseguimento degli ascolti sulle frequenze di Radio Città Fucico. I'll be here somewhere in the corner on the clouds of marijuana with this boy who's hollering, I can hardly hear over this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, here, oh, here. I ask myself, what am I doing here? Oh, here, oh, here. And I can wait till we can break up out of here. Excuse me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist. Usually I don't mess with this, and I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We could kick it and just listen to some music with a message like we usually do. We'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here, not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. So tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up, 'cause he can take what's in his cup no more. Oh God, why am I here?